Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. C'è un sacco di gente stasera in Piazza Grande a Modena. È una di quelle occasioni speciali, un concerto a cui non si può mancare. Tutti ad ascoltare le canzoni di un figlio della bassa, quella parte di pianura padana incastrata tra il Po e l'Appennino, che ha visto milioni di contadini spaccarsi ogni giorno la schiena per coltivare una terra generosa nei suoi frutti, ma esigente nel sacrificio del lavoro. Già, il lavoro. Per molti una necessità, per alcuni un ideale da celebrare, un valore da tramandare di generazione in generazione, chissà, magari con l'aiuto di una canzone. Stasera in Piazza Grande sono in molti con il pugno alzato, mentre ascoltano le parole di un cantautore che non ha mai nascosto il suo impegno politico e sociale. Un poeta della gente, un cantastorie del popolo, Francesco Guccini. Mia madre è carpigiana e mio padre era pavanese. E quindi la pianura mi appartiene geneticamente, la montagna di più affettivamente. Quante corse ha fatto il piccolo Francesco tra i fienili e i vecchi sentieri di Pavana, un paesino arrampicato sulle montagne dell'Appennino, proprio al confine con la Toscana. Un luogo fuori dal tempo, dove la vita è semplice, genuina, dove ai bambini si dà da intingere il pane nel vino con lo zucchero e dove si impara a cavarsela da soli fin da piccoli. Piccola città, io ti conosco, nebbie e fumo non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio. Ma sono qui nei pensieri le strade di ieri e tornano visi e dolori e stagioni, amori e mattoni e parlano. Pavana è un'idea. Pavana è frazione di comune, non fa comune. Pavana non esiste perché non c'è una parte che si possa chiamare Pavana. Quindi era qua il fiume, il mulino, attorno i boschi, questo era Pavana. Negli occhi di un bambino il fiume, il mulino, il vecchio campanile che fa risuonare i suoi rintocchi nella foschia mattutina, immagini che diventano ricordi indelebili di un enorme campo giochi. La differenza tra gli altri bambini e Francesco Guccini sta nel fatto che lui queste sensazioni è riuscito a descriverle in canzoni, poesie, racconti che fotografano un momento, un profumo, un volto. Ma quello che ho scritto nelle canzoni e nei libri, cioè molte cose sono venute da qua, non solo nei primi 5 anni della mia vita, ma in tutte le estati che ho passato, in tutti i Natali, in tutte le Pasqua che ho passato qui. È un mondo che era giusto, forse, oltre che doveroso raccontare. Però non sono tutti bravi a descrivere una sensazione, un profumo, una corsa per di fiato per rincorrere i conigli. Guccini ha una marcia in più. Trova sempre le parole giuste, come se dovesse disegnare ogni momento della propria infanzia su un foglio di carta. Pensare che da piccolo non ci credeva nessuno alla sua voglia di scrivere. Io sognavo di fare uno scrittore fin da ragazzino. Scrivevo poesiole, ma poesiole non erano più che altro filastrocche da bambino, sul tipo del Corriere dei Piccoli, insomma. E poi verso i 16-17 anni scrivevo poesie, come tutti poi gli adolescenti, ma erano comunque cosina di... E anche racconti, anche prose, insomma. Per scrivere bisogna anche saper cogliere i particolari da ogni singola esperienza vissuta. Solo che è difficile conservare a lungo un ricordo così nitido da poterlo descrivere a distanza di tempo. Guccini, invece, sa fare anche questo. Tutti gli amici dicono che sono dotato di una memoria di ferro. Io non credo che sia così. Penso di avere una memoria normale. E il fatto che buona parte della mia vita che ho trascorso qui a Pavana è stata immersa in quello che era allora la cultura contadina, che adesso non esiste più. E la cultura contadina era un genere di cultura fatto da gente che, se era andata a scuola, aveva fatto al massimo la terza elementare e quindi dovevano necessariamente esercitare la cultura orale, ricordare a memoria le cose. E qui il mio piacere era appunto imparare per poi poter riprodurre, poter raccontare. Emilia sognante fra l'oggi e il domani, di cibo vapori, di lusso e valere, Emilia di facce, di grida, di mani, sarà un grande piacere vedere in futuro da un mondo lontano, quaggiù sulla terra una macchia di verde, e sentire il mio cuore che batte più piano, e là dentro si perde. A Pavana Guccini ci è finito per colpa della guerra, quando viene portato a casa dei nonni paterni proprio negli anni in cui il padre combatte al fronte. Ma quando la guerra finisce, la famiglia si ricongiunge e si torna a lavorare in città, a Modena. Il piccolo Francesco non è per niente entusiasta di questo cambiamento. Lo trovano aggrappato a un ciliegio da cui non vuole scendere. Provate voi a chiudere un bambino in un appartamento di città dopo essere stato abituato a vivere all'aria aperta. Il viaggio che ho fatto da Pavana a Modena dopo la guerra è stato un viaggio drammatico. E già il primo impatto con la vita cittadina non mi è piaciuto, perché mi stupiva anzitutto che tanta gente abitasse in una casa che non, e non erano familiari, insomma, non erano quelli della stessa famiglia, al piano di sopra, al piano di sotto. E poi che le cose venissero comperate un etto di qua, due ette di là, insomma, non c'erano conigli, non c'erano galline, non c'era il latte dei contadini. Beh, com'è sta vita qua? Già, Francesco, com'è sta vita qua? È una vita nuova a cui devi abituarti in fretta. Per fortuna sei piccolo e ci metti poco a farti dei nuovi amici. E poi c'è la scuola, si cresce e il tempo passa così velocemente che ti ritrovi ad avere 16-17 anni e dover cercare un modo per far colpo sulle ragazze. Poi andiamo a vedere un film una volta in cui un gruppetto di questi musicisti, questi ragazzi, vincevano un concorso per andare a suonare in un campeggio di Scout Girls. E lo vincevano naturalmente. Il pensiero di questi 4-5 che avrebbero passato l'estate con 1000-2000 ragazze ci fece sognare. E quando uscimmo dal cinema dico: ragazzi, qua dobbiamo, io adesso non ricordo chi, dobbiamo mettere su un complesso. Allora i gruppi che adesso chiamano gruppi, loro si chiamano complesso. Quella che può sembrare una facile scusa non è altro che il primo contatto di Francesco Guccini con il mondo della musica. Un mondo che diventa parte integrante della sua vita e un modo per raccontare tutto quello che si porta dentro. Amore, se io fossi aria, le tue rondini vorrei, per guardarmele ogni minuto e farle volare negli occhi miei. Quelle rondini bianche e nere, che anche mute dicono tanto, tutta la gioia di mille sere, ed un momento solo di pianto, ed un momento solo di pianto, ed un momento solo di pianto, ed un momento solo di pianto. E così, guidato dal desiderio di avere un gruppo con cui suonare, Guccini impara a suonare la chitarra. Ha scelto questo strumento perché tra tutti è quello più a buon mercato. Dal suonare le canzoni degli altri a cominciare a scriverne per i fatti propri, il passo è breve e quando ci si trova con gli amici le note vengono giù da sole. Gli amici del bar sono il primo magnifico destino di Francesco Guccini, perché è con loro che dà vita al complesso dei Gatti, con i quali a soli 17 anni inizia la sua carriera di cantante. E difatti la scoperta del rock, una scoperta, un lampo che attraversava il cielo notturno, perché potevamo suonarlo anche noi. E questa fu la grande rivoluzione. Prima Pier con la batteria, poi Alfio con la batteria, poi io chiamato da Alfio, poi Victor chiamato da me. E si è creato questo gruppo di gente che suonava, bene o male sapeva suonare. Pier Farri, Alfio Cantarella, Victor Sogliani sono i tre amici con cui Francesco Guccini inizia a suonare e a far sentire la sua musica. Certo, ben lontana dalle ballate farcite di politica e impegno sociale che siamo abituati a sentire, ma l'importante è incominciare. E ancora le spiagge risuonano. Che viene dal mare A Guccini piace scrivere, non solo canzoni, ma anche racconti, poesie, romanzi. Questa passione ce l'ha sin da bambino, lo abbiamo detto, ed è il suo segreto personale per vincere una timidezza che altrimenti lo costringerebbe a starsene sempre in un angolo. Abbastanza estroverso a volte, ma forse è più il finto essere estroverso che molti timidi hanno, perché io sono una persona molto timida. E maschero a volte questa timidezza con l'irruenza, con accentrare attenzione, con la parola. E allora, bisogna lasciarle correre le parole e tirare fuori tutto quello che si ha dentro. Usare la penna come una spada e combattere una guerra personale. E poi, lungo la strada, si possono incontrare persone che possono offrire opportunità. Come quando Guccini viene assunto come giornalista alla Gazzetta di Modena. La paga? Una miseria, 20.000 lire al mese per 12 ore di lavoro al giorno, ma almeno Francesco può fare una cosa che gli piace tanto, giocare con le parole. Poi ho sempre avuto la passione delle parole, le parole come qualche cosa che possono portare ad altre parole, che possono portare ancora ad altre parole, come se la parola fosse un nucleo atomico con un significato semantico centrale, con tanti altri significati che ruotano attorno, insomma. Facendo il giornalista si incontrano persone, si diventa testimoni di avvenimenti, anche quando questi avvenimenti hanno a che fare con la cronaca locale, quella di una cittadina di provincia. Un giorno si lavora alla cronaca giudiziaria, un altro giorno ancora ti capita di intervistare il cantante italiano più famoso del mondo, Mister Volare, Domenico Modugno. Un'intervista come tante altre, ma che per Guccini è come una folgorazione. Se le parole hanno un senso sulle pagine di un giornale, devono averlo anche nel testo di una canzone. Poi arrivò a casa mia, non so chi, non so perché arrivò a casa mia questo tizio che mi fece, dice fai delle canzoni, anch'io. E questo mi fece sentire una sua canzone che dice, sai la vita in rosso, eccetera. Io dice, ho fatto una canzone che chiama Io vedo la vita in rosso. E così mi venne in mente di fare questa canzone, l'antisociale. Non mi piace essere per bene, far la faccia che conviene, poi alla fine sono sempre senza grana. Odio la vita moderna, fatta scandali e cambiali, i rumori, gli impegnati intellettuali. Odio i fusti carrozzati, dalle spider incantati, coi vestiti e le camicie. I facili sentieri di Pavana hanno lasciato il posto alle strade di Modena, ma è tempo di un nuovo trasloco. Iniziano gli anni 60, Guccini si iscrive alla facoltà di lingue dell'Università di Bologna. E quindi nel 60 si sono trasferiti a Bologna. E devo dire che è stato un salto molto curioso, perché ho cambiato completamente ambiente. Agli inizi degli anni 60 Bologna è una città molto tranquilla. La vita scorre lenta sotto i portici del centro e i giovani che frequentano l'università non sono ancora coinvolti in quelle trasformazioni che di lì a poco avrebbero cambiato completamente il mondo studentesco italiano. I ragazzi si trovano a cantare nelle osterie e Francesco Guccini, che divide la casa con Alfio Cantarella, uno dei fondatori dell'Equipe 84, è uno di quelli che, come dire, tiene vive le serate. Allora succedeva questo. E noi ci muovevamo sempre con 3-4 che suonavano la chitarra, questo era fondamentale, era sempre. Allora questo attirava tutti gli altri, vuol dire che se la prima sera qui eravamo in 10, la seconda sera eravamo in 15, la terza sera non si entrava più perché arrivavano tutto a Bologna. Cadono come foglie o gli ubriachi sulle strade che hanno scelto. Delle rabbie antiche non rimane che una frase o qualche gesto. Non so se scusano il passato per giovinezza o per errore. Non so se ancora resto in loro, se mi incontrano per forza la curiosità o il timore. Tra osterie e piccoli locali, Guccini e i suoi amici cominciano a farsi conoscere. Intendiamoci, non si guadagna niente a passare le serate in osteria, ci si diverte, si canta, si sta in compagnia, al massimo si beve gratis. Ma proprio sul più bello, 2 anni dopo il suo arrivo a Bologna, Francesco lascia tutto, università, famiglia, amici, per fare il servizio militare. Al suo ritorno il suo complesso, i Gatti, hanno subito una trasformazione. C'era un altro gruppo che chiamavano i Giovani Leoni, a Vandelli ha insegnato i primi accordi, il Re, la Maggiore, ricordo. Si accordarono altri 2, quando andai militari 2 gruppi si fusero, quindi Vittor Sogliani, Alfio Cantarella, Vandelli e Ceccarelli fecero Equipe 84. Dall'altra parte c'era Dodo Veroli, entrato nella musica leggera con un paio di ragazze di Modena, stavano allevando, diciamo così, i nomadi. E così ho cominciato anch'io, con l'Equipe 80 da una parte e con i nomadi da quell'altra. Anche Guccini avrebbe potuto farne parte, ma quando i suoi amici glielo chiedono, Francesco dice no. Preferisce andare per la sua strada continuando a scrivere per gli altri, perché, non dimentichiamolo, lui è un timido e non ha tanta dimestichezza con il palco. Non sono certo i soldi che cerca Francesco, l'eterno studente. A Bologna Francesco respira a pieni polmoni un'aria che non è quella di montagna, di pavana, e non è neanche quella del tranquillo centro di Modena. È un'aria che fa nascere ogni giorno nuove idee, nuove discussioni, nuovi spunti per trattare argomenti seri, difficili, come certi temi sociali possono essere. Il lavoro, il diritto allo studio, la libertà di espressione, la libertà di manifestare il proprio dissenso. Cielo sono le stesse nubi di una volta, i fiori che sono nei prati da quando esiste il mondo sono nati, e gli occhi tuoi che ora mi guardano sono profondi, grandi occhi di bimba che vuol sapere cos'è la vita, che vuol sapere cos'è questo mondo. E poi sta arrivando il beat dall'Inghilterra, un nuovo genere musicale che con forza sposta di lato il rock and roll e cambia la moda, l'arte e il modo di pensare dei giovani di tutta Europa. L'Equipe 84 diventa la punta di diamante di questo genere musicale e Guccini è pronto per questa rivoluzione, certo, a modo suo. Ed è così che scrive per l'Equipe 84 alcune canzoni, tra cui Auschwitz, che regalerà al gruppo il suo primo successo. Ad Auschwitz c'era la neve, saliva lento. Ma anche il nome di Francesco comincia a girare negli uffici delle case discografiche e arrivano già le prime richieste di scrittura per altri cantanti. Forse è il momento giusto per fare un salto di qualità, per uscire dalle osterie e far sentire a un pubblico più grande le proprie canzoni. Parlo del 64, 65, 66, questi anni. Caterina Caselli poi venne in questa casa perché era appena fatto Nessuno può giudicare, e quindi era famosa e andò a fare una serata Porretta. Venne su dopo la serata, venne proprio qui e fece sentire alcune canzoni che erano poi, Auschwitz era già conosciuta, ma fece dire Noi non ci saremo, Per fare un uomo, tutte quelle cose. E Caterina Caselli si piacquero molto queste cose. La mia storia. La canzone Una storia d'amore viene presentata a Sanremo ma non passa le selezioni. Però viene comunque incisa da Caterina Caselli, anche se ancora non si può dire che il vero Guccini, quello che tutti conosciamo, sia già venuto fuori. A dire il vero non se ne accorge neanche la stampa, come lo stesso Guccini racconta in un'intervista. Fra l'altro, la prima menzione su un giornale dice Caterina Caselli sta ascoltando e facendo alcune delle canzoni di un giovane studente di ingegneria, figurati, ingegneria, tale Francesco Puccini, fra parentesi, è solo un caso di omonimia, chiuso parentesi, ecco. I magnifici destini. Il piccolo sentiero che a Pavana sulle montagne emiliane porta dalla strada al fiume è stretto e anche un po' ripido, ma le gambe tanto lunghe quanto forti di Francesco Guccini hanno imparato a percorrerlo con sicurezza. La stessa sicurezza con la quale le prime canzoni dell'eterno studente, come lui stesso si è definito, cominciano a viaggiare per la loro strada, cantate da altri, certo, ma finalmente libere. Francesco Guccini è uno che è nato a Modena il 14 giugno del 1940 e ha fatto fino a tutta l'università senza peraltro prendere la laurea, pur avendo finito gli esami. Mi manca ancora la tesi, che non farò mai, penso, che ha scritto delle canzoni, ha scritto dei libri. Scrivere, scrivere. Ma se all'inizio Francesco scrive per gli altri, nel 1967 esce finalmente il suo primo album, Folk Beat numero 1. Un album che, come ricorda in diverse occasioni lo stesso Guccini, passa abbastanza inosservato, anche se contiene alcuni successi come Auschwitz e In morte di SF, che diventa famosa negli anni successivi col titolo Canzone per un'amica. Lunga e diritta correva la strada, l'auto veloce correva. La dolce estate era già cominciata, vicino lui sorrideva. Sul finire del 1969 viene registrato il secondo album dal titolo Due anni dopo. Alla scrittura delle canzoni collabora con Guccini una ragazza americana che con una borsa di studio è venuta a vivere a Bologna. Ecco, questo è uno di quei casi in cui si può dire che un americano ha trovato l'America qui da noi, in Italia. Infatti, Deborah Cooperman, che è anche il nostro secondo magnifico destino di oggi, incontra Guccini all'università, dove si accorgono di condividere la passione per la musica e per la scrittura. Inoltre, la Debbie, come la chiama Francesco, è bravissima a suonare la chitarra con la tecnica del finger picking, che consiste nell'usare le dita al posto del plettro per suonare arpeggi complessi e tipici della musica folk americana. Uno stile che si può ascoltare anche in grandi artisti come Bob Dylan e John Baez e che comincia a caratterizzare tutti gli arrangiamenti di Guccini. E ricercherai di desideri fragili esistenze. Lo specchio vede un viso noto, mai sempre quella solita paura. Che un giorno ti rifletta il vuoto oppure che svanisca la figura. A Bologna ci sono tanti locali dove i ragazzi alla fine degli anni 60 possono divertirsi, ma fra questi uno è davvero particolare per quello che propone al pubblico. L'Osteria dei Gandolfi. Come già accaduto altre volte, la voce tra gli studenti si sparge velocemente, così in poco tempo il locale diventa un punto di ritrovo dei giovani bolognesi. Già, perché Guccini e Deborah Cooperman sono amici di un ragazzo greco di nome Alex e le serate all'Osteria dei Gandolfi vengono animate da questo trio piuttosto bizzarro. Una sera la Debbie canta le canzoni americane, la sera dopo Francesco con i suoi testi sempre più impegnativi e poi Alex che canta il repertorio della sua terra, la Grecia. Ancora una volta l'osteria si riempie di ragazzi incuriositi, al punto che è impossibile entrare. Quando Alex lascia Bologna e ritorna in Grecia, Guccini e la Cooperman continuano a collaborare in un sodalizio che va avanti fino al 1978. La casa sul confine della sera. Con il terzo album Radici arriva il successo di Francesco Guccini come cantante. Un ritorno alle origini, alla ricerca del punto da cui tutto è iniziato, con la descrizione dei luoghi e delle persone che hanno segnato profondamente la sua vita, a cominciare dalla foto di copertina che ritrae i bisnonni Maria e Francesco, con dietro in piedi i quattro figli. Ho fatto una serie di canzoni che riportavano sempre, anche se in maniera diversa, lo stesso tema. Per cui c'era la canzone Radici, che parlava proprio esplicitamente della casa, che era il mulino dei miei nonni. Ma la locomotiva potrebbe essere segno di radici politiche, e incontro segno di radici modenesi, la canzone di 12 mesi segno di radici culturali. A volte, per sapere dove si vuole arrivare, bisogna innanzitutto capire da dove si è venuti, quali persone hanno creato quelle idee, quelle convinzioni di cui ci si fa strenui difensori. E chi se ne frega se tutto il mondo sta andando sottosopra, se qualcuno dice a Guccini che sta sbagliando. Quello che conta è la coerenza, tutto il resto non conta. E quindi ho capito che in un periodo in cui molti volevano fare tabula rasa del passato, io invece cercavo questo passato per capire che cos'ero. Quello era un momento particolare in cui avevo bisogno di trovare un qualche cosa che mi appartenesse. E quindi le radici. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Dopo una canzone come questa, pensate che ci sia ancora qualcos'altro da aggiungere? A livello biografico sicuramente sì, ma le lunghe descrizioni di album, canzoni, concerti che si susseguono fino ai giorni nostri li lasciamo fare ai critici musicali. anche perché Francesco Guccini con i critici non ha mai avuto un buon rapporto, soprattutto con uno, Riccardo Bertoncelli. Sì, proprio lui, proprio quello che Guccini cita nella sua canzone L'Avvelenata. Allora, per farla breve, è andata più o meno così. Bertoncelli recensisce l'album Stanze di vita quotidiana. In confronto a Radici, questo album è considerato più brutto del precedente. E Bertoncelli non si vergogna a scriverlo definendolo in questo modo. Quello che intendo dire però è che non capisco perché Guccini continui a fare canzoni. Dato che i primi tre album erano il fischio ingenuo, a speranza e illusione di un 67-68 effimero come i 20 anni, e Radici, la marcorda inevitabile che getta fuori ciò che è rimasto e poi più niente. Ecco la frase meravigliosa. Francesco Guccini non appartiene più a se stesso. Non sono certo frasi gentili da dire a un montanaro di 1,90 m che passa il suo tempo a scrivere canzoni di protesta. Guccini, che sarà anche timido, ma se deve dire qualcosa non ha nessun problema. Durante un concerto canta una canzone che contiene una risposta per niente diplomatica nei confronti del critico musicale. Che cosa posso dirvi? Andate, fate. Tanto ci sarà sempre, lo sapete. Un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Massimo Villa, questo amico, mi dice: ieri sera sono andato a sentire un concerto del tuo amico Guccini. E allora dicevo questo tano garrulo, come dire, eh? Ma... E allora, andate a cominciare, il mio amico non lo conosco neanche, poi dov'è la notizia? E mi dice: come dov'è la notizia? Ha fatto una canzone che ti riguarda. Oggigiorno tutto sarebbe finito immediatamente in mano agli avvocati, con querele per diffamazione, richieste di risarcimento danni. Invece Bertoncelli preferisce fare la cosa più normale e sensata che gli viene in mente. Allora faccio una cosa che oggi assolutamente sarebbe impossibile. Gli telefono e lui rimane stupito perché dice: come? Forse si aspettava una reazione aggressiva, invece ero più incuriosito. E in totale... lui mi dice: dai, ma perché non ci vediamo? No, appunto te lo volevo proporre, vediamoci uno di questi pomeriggi. Vado a Bologna, nella mitica via Paolo Fabri 43, il disco non era ancora uscito. Mi apre, mi trovo questo omone, alto anche più di me, poi con quest'aria da montanaro, allora devo andare più, adesso sei molto impossito. Mi vede e mi dice: sei fatto così. Dico: sì, sì. No, perché ti facevo uno piccolino. A un certo punto tiro fuori la chitarra e dice: te la faccio sentire. Dico: dai, allora mi fa sentire la canzone in diretta, me lo ricordo, era appoggiato alla sua scrivania, fa la canzone e poi dice: dai, ma adesso che ti ho conosciuto cambio il nome. Ma comunque, guarda, io dico: ma figurati, guarda, siamo sportivi, è nata così, lasciala così, per cui sappi che non verrà mai neanche incisa. La canzone invece viene pubblicata nell'album del 1972 che prende il nome dall'indirizzo di casa di Guccini, via Paolo Fabbri 43. Ma Bertoncelli ormai è diventato un amico con cui condividere la passione per i racconti del passato e i fumetti di Paperino, di cui entrambi sono collezionisti. Che sinceramente gli voglio bene, è una persona che stimo, a me piacciono soprattutto. Cioè, è una persona che ne conosco pochi, un altro per esempio, su un piano completamente diverso, è Renzo Arlo, che hanno usato la popolarità per fare quello che volevano nella vita. E io la trovo una cosa bellissima. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. I magnifici destini. Siamo quasi arrivati alla fine del viaggio che ci ha fatto scendere da Pavana, nel cuore dell'Appennino emiliano, a Bologna, passando per Modena, alla riscoperta delle radici culturali che hanno reso grande il cantautore italiano per eccellenza, Francesco Guccini. Cantante, ma anche autore e scrittore, alternando canzoni di protesta e di impegno politico a sigle per Il Carosello, scritte insieme a Bonvi e a Guido De Maria, per approdare anche al romanzo poliziesco con l'incontro con il terzo magnifico destino di oggi, Loriano Machiavelli. La mia avventura nel poliziesco comincia per caso, da una storia vera accaduta a Pavana tanti anni fa. Ma dato che io non sono un giallista, conoscevo Machiavelli, Loriano Machiavelli, e dico: guarda, se vuoi ti do questa idea, ti do questo inizio, questa fine e questa parte centrale. nessuno dei due aveva mai scritto con un altro. Abbiamo provato ed è uscito il primo Macaronino, il primo giallo. Loriano Machiavelli ha inventato il personaggio di Sarti Antonio Brigadiere, un poliziotto credibile, onesto e tenace protagonista di molti libri e di una miniserie televisiva andata in onda su Rai 2. Quando nel 1997 esce invece Macaroni, il libro scritto a quattro mani con Francesco Guccini, il protagonista è un altro, il maresciallo Benedetto Santovito. Il libro, nel quale il racconto dell'intrigo poliziesco si mischia alla descrizione dell'Emilia e della vita di paese tanto cara a Guccini, non è che il primo di una serie di sei romanzi frutto di una collaborazione tra i due durata 10 anni. Ma è divertente scrivere i gialli, anche perché poi i gialli sono dei contenitori, voglio dire, non è soltanto la storia gialla che può interessare al lettore, ma piccole cose, notazioni di colore, di costume. Una politica che solo parcialiera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, e un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto. La voglia di rimanere veri, genuini, senza farsi travolgere dalla fama e dalle luci dei riflettori è ancora forte in Francesco Guccini. Come ricorda nel 2001 alla festa della CGIL, quando si ritrova a bere una birra con Sergio Cofferati. Io non sono cambiato, io sono sempre lo stesso. E quindi una coerenza di base in un mondo dove la coerenza non esiste più, o può variare in 3 secondi, può variare a seconda dell'interesse, del fatto commerciale, del potere guadagnare di più piuttosto che un'altra parte. E questo per me è importante. Siamo fatti così, quindi c'è da fare. Gli anni passano, è vero, ma l'eterno studente, Francesco Guccini da Pavana, vuole ancora mantenersi libero di dire ciò che vuole. E se andate a casa sua, in via Paolo Fabbri 43, e gli chiedete di spiegarvi la teologia gucciniana ipotizzata da qualche intellettuale non ben definito, questa è l'unica risposta che avrete. La teologia gucciniana, quando sua Pavana la caldaia mi si blocca e rimango all'addiaccio, si può sentire ad alta voce la teologia... questo rapporto diretto con... Nell'anno 99 di nostra vita, io giullare da niente, ma indignato, anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,